Radio 24 Reportage. Auschwitz Fossoli, i nuovi custodi della memoria, di Dario Ricci. Credo che la miglior forma di conoscenza sia l'esperienza, e credo che questa sia proprio una grande esperienza. E questo progetto mi permette di conoscere sulla mia pelle veramente quello che è successo. Di sicuro saremo tutti un pochino più, diciamo, in riflessione personale, perché ciò che vediamo, ciò che sperimenteremo ci cambierà, ci lascerà qualcosa dentro che comunque ci porteremo sempre con noi. Sicuramente sarà un'esperienza strana, allo stesso tempo molto profonda per noi, che siamo abituati per esempio ad utilizzare il treno come spostamento normale, insomma come mezzo di comunicazione come tutti gli altri, e pensare che in passato fu un mezzo utilizzato per con questo fine così tremendo di deportazione, per noi sarà una sensazione molto emozionante, credo. Li avevamo lasciati così, erano i giorni che precedevano il giorno della memoria, lo scorso 27 gennaio, e le voci che avete sentito erano quelle degli alunni dell'Istituto Tecnico Commerciale Meucci di Carpi. E oggi proprio a Carpi siamo con il nostro microfono per ritornare a quei giorni con quei protagonisti, con quegli alunni che da Carpi partirono durante quella settimana verso Auschwitz, destinazione Auschwitz, il volto nero, il cuore nero dell'Europa, per incontrare quella che è la storia di questo continente, è la storia anche dell'Italia e dei suoi figli. Perché Carpi? Perché Carpi in questa epopea è sinonimo di Fossoli. Fossoli che è stato il campo di concentramento chiave nella mappa della Shoah per quanto riguarda l'Italia. E proprio qui a Fossoli ci troviamo oggi con quei ragazzi che avevamo incontrato telefonicamente alla vigilia della loro partenza. Con Marzia Luppi, che è la loro insegnante, la presidente della fondazione ex Campo Fossoli. Professoressa, cos'è Fossoli nella mappa della Shoah italiana? Dunque, Fossoli riveste purtroppo un ruolo molto importante perché è il campo di polizia di transito che dal 15 marzo del 1944 diventa il luogo di raccolta nazionale della deportazione degli ebrei dall'Italia. C'è, diciamo così, una deportazione che ha riguardato le persone per quello che loro facevano, per quello che loro pensavano, e quindi questa è appunto la deportazione politica, e oltre 2700 sono i politici che vengono prima richiusi a Fossoli e poi deportati a Mauthausen, a Bergen-Belsen, Buchenwald, e c'è una deportazione ebraica, cioè di persone che sono deportate per il loro essere, quindi non tanto per quello che fanno, ma semplicemente perché esistono, sono ebrei, sono stati marchiati come diversi. E da Fossoli passano 2843 ebrei, circa un terzo della deportazione complessiva dall'Italia. Da qui partivano i pullman, li portavano a Carpi, i convogli si formavano a Carpi. Sono 12 convogli che partono con deportazioni da Fossoli. Le direzioni sono in prevalenza Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück per quanto riguarda la deportazione femminile. C'è un vento freddo oggi che forse ci aiuta anche a immaginare, no, le condizioni in cui quegli uomini, quelle donne, quelle famiglie affrontarono questo viaggio. Dove ci troviamo ora in questo momento, professoressa? Vedo qua intorno abbiamo tutte le baracche del campo. Dove siamo? Cosa vediamo? Allora, ci troviamo in fondo al viale d'ingresso, quindi siamo nell'area della gendarmeria. Davanti a noi si aprono appunto i due settori che erano i due settori suddivisi per i deportati politici, che sono le 8 baracche che noi vediamo sulla nostra sinistra, mentre a destra abbiamo le 7 baracche invece dove erano detenuti deportati politici. Proviamo a fare qualche passo lungo questo viale con alcuni dei ragazzi che ci avevano raccontato la loro attesa per questo viaggio verso Auschwitz. Simone Pellicciari della Quinta Ragioneria. Ecco, per chi come voi viene proprio da Carpi, da Fossoli, c'è una sensazione o un senso di responsabilità particolare nel vedere Auschwitz? Entra nella vostra quotidianità, immagino. Sì, io ogni mattina passo davanti a... percorro questa via per andare a Carpi e quindi vedo sempre queste strutture ormai diroccate, però che hanno grande significato e quindi sì, è molto sentita come cosa. Allora, passiamo invece a qualche altro ragazzo, anzi, in questo caso una ragazza. Prego, presentati. Sono Chiara, faccio la quinta sempre al Meucci. So che avete partecipato in modo volontario, no, al viaggio ad Auschwitz. Chi non è venuto? Cosa vi ha detto al ritorno? Quelli che non sono venuti si sono mostrati molto interessati a sapere com'è andata, le sensazioni, però personalmente anche a dover spiegare ciò che ho provato, ciò che ho sentito, ciò che ho visto, faccio veramente fatica. Forse perché è una sensazione, un'esperienza talmente forte, ha un livello emotivo talmente potente che non riesco ad esprimerla, mi si crea come un blocco e non riesco a dire tutte le cose che ho provato, ho sentito. Fra qualche anno magari dovremo raccontare questa esperienza non solo ai nostri genitori, ai nostri amici, ma anche ai nostri figli, no? Hai già immaginato quel momento, quel giorno? No, cioè, non proprio, però sono sicura che potrò dire che una persona non può capire le cose come sono accadute, non può rendersi conto veramente dell'enormità della cosa, finché non vede i posti, finché non vede anche solo la vastità di Birkenau, che è una roba veramente enorme, non ce ne si rende conto, se no. Presentati, prego. Sono Elisabetta della Quinta Meucci. Elisabetta, che effetto vi fa? Che effetto ti fa questo, per esempio, il dibattito che c'è oggi sull'accoglienza dell'altro, il tema del razzismo? Sappiamo che si va ad Auschwitz anche per in qualche modo assumere degli anticorpi, no? Rispetto ai temi della xenofobia, del razzismo. Ecco, questo viaggio che peso ha avuto in questa direzione? È direttamente collegata a questa cosa, ai giorni nostri. Un peso importante, soprattutto, come ho detto, questo viaggio è più che altro un viaggio individuale, una riflessione sui veri principi della vita. E si accorge che alla fine siamo tutti uguali, che tutti abbiamo dei sentimenti e tutti dobbiamo rispettare l'altro. Parole che pesano se lette in controluce con la mappa del campo di Fossoli, no? Che l'abbiamo proprio adesso qui davanti ai nostri occhi e ci fa vedere quello che era lo schema del campo con le sue baracche, l'infermeria, le baracche per gli ebrei, le baracche per i prigionieri politici. Tanto è spuntato un sole che rende un po' più tiepida questa giornata. C'è un silenzio irreale. Vengono in mente le parole con cui Primo Levi descrisse il campo, quei panni stesi che aspettavano di essere asciugati e il comando della partenza voluto dalle SS che arrivava inesorabilmente sempre troppo in fretta, no? Perché veniva a spazzare via storie e vite. Chiedo a Serena della Quinta M. Vedere l'Arbeit macht frei, il cancello di Auschwitz. Come te l'eri immaginato e cosa hai provato? Vederla dal vivo è stata abbastanza, cioè, ha toccato molto. Poi abbiamo visto soprattutto all'entrata del cancello dei vecchi deportati, cioè c'era il giorno della memoria, quindi hanno voluto ricordare, quindi avevano il pigiama e quindi proprio avevano incarnato. E dal mio punto di vista ha preso molto, perché io non avrei avuto il coraggio comunque di rimettermi il pigiama e ripassare nella stessa strada in cui sono passati loro, in mezzo a quelle baracche. Professoressa Luppi, per chiudere questa nostra visita, qual è il messaggio che parte da questi ragazzi e da Fossoli verso il futuro? Credo sempre che la funzione della storia in generale, anche quando non si occupa di Auschwitz, sia quello di costruire nei ragazzi un pensiero critico e un pensiero autonomo, cioè la capacità di guardare il mondo con attenzione, di di non essere conformisti, di avere anche il coraggio di andare contro a quella che può essere una legge costituita, se questa è percepita come qualcosa di ingiusto, di profondamente ingiusto, che lede il principio di umanità, perché chi ha aiutato gli ebrei a sottrarsi alla deportazione, chi ha abbracciato gli ideali della resistenza, ci dobbiamo ricordare che ha fatto un atto di disobbedienza.